Siamo soli in questa stanza, eppure c'è qualcuno che ci guarda. Senti, non ne senti di rumori, eppure c'è qualcosa che si muove. Stanza, eppure c'è qualcuno.